Natalino Carossa, sei Claudio Carossaro? Dal bip, te ne sei accorto, sono io. Sai cos'è? Però sono abituato a sentirti col bip. Ogni volta che sento il bip credo che sia Natalino. No, e vabbè, ieri stavo usando l'altra. Oggi usiamo questa. Ogni giorno ne cambio una. Eia. Aspetta, faccio lo squelch, ben entrato. Noi stiamo tornando praticamente quasi adesso dalla... spesa da Lidl, invece la sabbia, quella rossa per i gatti, no? Tipo quella rossa, come si chiama? L'abbiamo presa da Eurospin, tipo argilla, mi, che Lidl c'è una sabbia schifosa, polverosa, e poi diventa cemento, no? Disturba anche il naso del gatto, fa troppa polvere. Ho capito, va bene. Stavo dicendo, ma quelle lampadine che hai preso tu l'altra volta, H4, cosa vuol dire? Ma sono praticamente meglio di quelle che ci sono normali, cosa vuol dire questo H4? H4 è diciamo l'attacco che ha la lampadina, l'attacco, no? C'è H3, H4, H5, H7, è l'attacco della lampadina, tutto lì. E ti danno in quel kit due lampadine H4, però c'è scritto anche, a parte l'attacco, più 30% di luminosità. Per esempio, se la mia originale fa 50-55 watt, no? Tra abbagliante e abbagliante. Questa è una 55-60 watt, un po' più di luce in più, d'ordine, ma quello a me non mi interessa. Insomma, ci sono nel kit due lampadine H4, quelle lunghe, no? con la lampadina allungata. Poi c'è una luce di stop e posizione tutt'uno. Poi la lampadina, credo, per frecce. Credo sia, poi una lampadina per luce targa, poi una lampadina addirittura per dentro la macchina, no, la luce di cortesia della macchina, più vari fusibili in dotazione, cioè 10 ampere, 15, 20 e 30. Tutto per quanto? 6,99, 7 euro sarebbe da. E non ce n'è più perché te l'hai ammacciata tu e te l'hai conservata così? Beh, io una ne ho preso, io mi ricordo che quando l'ho presa ce n'erano altre 3 o 4 di ogni tipo, 3 o 4 di H4 e 3 o 4 di H7. Ma che ti serve? La tua macchina che lampadine ha? No, vabbè, l'Alfa sono diverse, però la 600 dovrebbe avere questi H4, penso. Ho messo i fari nuovi con le lampadine vecchie, devo mettere anche lampadine nuove. Per esempio la vecchia A1, non la versione Fire, no, la vecchia A1 aveva le lampadine a bulbo, non so cosa fosse di attacco, però la lampadina era tonda, mentre adesso sono tutte allungate, no, strette lunghe. Poi sai cos'è, Claudio? Che delle macchine nuove, proprio nuovissime, comprate nuove, ormai c'è tutto LED, frecce, luci posizione, anche le luci lì davanti sono a LED, capito? Tutto LED, consumano molto meno, in teoria dovrebbero durare molto di più, in teoria, capito? Ormai è tramontata l'era della lampadina, così come hanno fatto in casa, che hanno messo prima queste a neon, adesso per la casa ci sono lo stesso quelle a LED. Il LED è l'ultima frontiera delle lampadine. Ho capito. Va bene. No, se costano così poco le compro sabato mattina, faccio un salto a vedere se ci sono. Se sono uguali, se non me la ricordo la lampadina, come della 600. Se è in casa, se non mi ricordo. Comunque, provo a vedere. La controllo, vedo un po', capito? Va bene, perché voglio nuove lampadine, sono consumate, capito? mia, non ti dico nulla. Cose magnetiche, sempre magnetici. Io sono come i ruminanti. Allora, ho preso da Eurospin cioccolato svizzero al latte, proprio fatto in Svizzera, con nocciole. Non te ne dico niente. Io già lo prendo anch'io quello bianco. Non è Nuffi, dolciando mi sembra quello lì. Sì, addolciando, no, ma non è bianco. Questo è semplicemente cioccolato al latte, ma il colore è marrone, no? Ed è con le nocciole. Con nocciole intere. Ed è fatto ovviamente in Germania. Perché queste cose no, aspetta. Io non se lo leggo. Maledetti. Comunque avevo visto l'altra volta che era fatto veramente in Svizzera. Fatta proprio in Svizzera. Vediamo se lo leggo, prodotto confezionato per Eurospin da stabilimento di Welkewon, Svizzera. Sì, Svizzera, proprio Svizzera. È vero cioccolato svizzero, certo non è Nuffi, ma è buonissimo. Alla fine questi Nuffi sono costosissimi, Nuffi e non solo, capito? Questi vanno più che bene per i poveri. Sì, per i poveri, per i ricchi. No, già lo compro ogni tanto, però non ne approfittiamo mai, capito? Sono cose che fanno male e quindi bisogna lasciarle dove sono. Natalino non c'è, Natali. Ancora no, dai. E anch'io certe volte faccio la penichella lunga. Magari in questo periodo no. Però dormo più di mattina. E sogno un bene. Quando poggio la testa al cuscino, cioè la nuca verso sul cuscino, ho notato che sogno un bene. A raffica, in continuazione. Anche se mi sveglio, no. Poi mi riaddormento e sogno ancora. Però poi non me li ricordo tanto che sogni sono. Ma... sì, vabbè, importante sognare sempre, è bello sognare, diceva quella canzone, e basta, per il resto è nuia, come il povero califano, nuia, no, anch'io mi sono riposato un pochino, però poi non riuscivo a stare nel divano, allora mi sono alzato. Niente, mi sono seduto un po' qua, ho schiacciato la portante. Oh, mi piace un dolore con questo baracchino, capito? Tutto il resto è spento, tutte le altre radio sono spente. Eia, e poi esce bene, adesso proprio stai uscendo bene, adesso stai parlando abbastanza piano, no? Eia. Allora io per verificare, siccome non ho il manuale d'officina della mia macchina, no? Non c'era nessun manuale che non abbiamo preso, no? Usata. Ho aperto il faro dietro dove c'è la cuffia di gomma, no? Tolto la lampadina e ho visto H4. Se no la cieca non li compro, non li compro la cieca perché poi non te ne vai nulla. Ma sai perché l'ho preso? Perché pare che per la stradale sei obbligato a portare il set della padina di ricambio, capito? Sei obbligato a portarlo. E poi vabbè, a parte che quando mi si è fulminata la luce targa, io subito sono andato allo Shan, l'ho cambiata la luce targa. Se no fanno storie se c'è un controllo dei carabinieri, sai, di notte, lì, col buio. Ed era una confezione da due, anzi l'altra non l'ho trovata, l'altra luce targa non so dove sia, comunque c'è nel kit, no? Male andando, dai. Bene, bene, io c'avevo qualche lampadina sparsa, però tutte mezze perce le ho, dai, e quindi ho preso quel kit, dai. Molto bene, molto bene. Ma H4 sono quella che ha quattro lamelle che si incassa e poi ci va quel gancetto, quello lì H4. Sì, tre o quattro lamelle. Però penso che il formato sia più che altro la lampadina, non lo so, non me ne intendo molto. su, se vuoi andare a Coppola Sicuro, guarda, ormai non ne troverai più comunque, perché stanno già cambiando tutti gli scaffali e stanno mettendo altra roba. Non credo li troverai più. Comunque ti direi certa. Aia cazzo! Non ce l'hai il libretto della moto che dice che fare monta? Libretto della macchina? Sì, che ce l'ho. Ce l'ho anche l'uso e manutenzione, c'ho tutto. E sabato guardo che sono libero e me ne metto perché esco molto presto la mattina e la luce non è bianca bianca, capite? Un po' giallogno, le lampadine devono essere vecchie, fare li ho messi in ufficio. Abbiamo tratti Roberto la settimana scorsa. Adesso vorrei arrivare i paraurti e poi è finita la macchina. Va bene, Tartalino, ci sei Tartalino? Perché è forte la radio, non va bene? Sì che va bene, molto limpida, molto bella. Mamma mia, sta ronzando questo alimentatore, mi... Sì, sì, sì. Non c'è niente da fare, lo devo aprire, dai. Devo aprire e dare una pulita alle ventole. Bene, comunque vabbè, un kit di lampadine uno se lo può fare anche comprando le singole mie. Capito? Tanto non si fulminano assieme, basta pigliare una lampadina per il faro abbagliante, una per la luce di posizione, una per le frecce, una luce targa, tutto lì dai, niente di che. Ehi, basta, se non ci sono lì basta andare al coso lì. Al bricco, ma già ci sono, sicuramente, pure l'MD di Trinità, è uguale, guarda se ci sono, domani, va bene, no, se non ne metto due, vado all'elettrauto e me le faccio cambiare, non le mise vecchitte, cosa me ne faccio vecchitte, vado all'elettrauto e me le faccio mettere nuove lampadine con più watt, appena più di watt perché poi può avere difficoltà l'impianto, scaldano gli attacchi e piglia buco la macchina, bisogna stare attenti a queste cose. Eia, sì, ma l'importante è non metti proprio fari alogeni che accecano, allora consumano di più. Guarda, c'erano anche Rochan mille lampadine, ma perché tu gira non sai cambiare due lampadine di fari? Sì, le so cambiare, ma non so quali sono, devo togliere, faccio prima, ne tolgo una, vado e le compro, capito? E così sono sicuro che sono uguali. Eia, vabbè, anche dall'elettrauto per dire, lui le toglie, non devi andare a comprare, le guarda sul momento e te le mette al momento. Più immediato, dai. Ma sì, non ne servono altre di luci. Magari, che ne so, metti che si fulmini la luce retromarcia, però quella è specifica. La retronebbia, ma retronebbia, vabbè, da noi non si usano. Noi siamo a Londra, dai. Non era pianura padana. Luce posteriore, come si chiama? Luce retromarcia, vabbè, non so nemmeno che lampadina io, ma credo che sia una 5 watt solito, no? Non deve illuminare, deve solo far vedere che stai tornando indietro. Sì, cioè deve anche illuminare, se no ti chiudi al muro. Quando è buio è meglio che illumini, capito? Che faccia anche un po' di luce, là, se no è un casino. Va bene, che bella giornata oggi, minchia, cioè all'Isola Rossa c'era gente al mare facendosi il bagno, roba la matti. Oh, beh, c'è alta pressione, c'è il sole, bello, una bella giornata anche oggi, soprattutto di pomeriggio, di sera, capito? Ma all'Isola Rossa ci stavano facendo il bagno le persone, alla faccia nostra, eh? Non so, l'Isola Rossa è un po' da tre parti, anche a Barisi, insomma, un po' la zona di mare era... c'era gente, vabbè che sono tedeschi, capito? Tedeschi, inglesi, francesi, spagnoli, poche macchine ho visto, qualcuno a Milano ancora, qualche milanese c'è ancora in giro, rompe le palle, ma al più sono inglesi, tedeschi, francesi e spagnoli. Seiya, pensa che siamo al 4 ottobre, anzi settembre è stato un po' più, vabbè, tra perturbazioni e tutto, pensa che quando c'erano questi temporali e alluvioni in questi ultimi periodi, no, al nord, in Sicilia erano al mare, c'era una roba di 35 gradi ancora, a settembre. In Sicilia se ti vedi, viso 25 gradi volava, oggi è salita un po' la temperatura, no, ma eravamo 25 gradi, 24, 25 gradi, perlomeno nella zona dove ero io, perché non era neanche ventilato, capito, c'era un bel di sole proprio caldo, mi dà da stare maniche corte. Anche stamattina io sono uscito con la polo a maniche lunghe, quindi estiva a maniche lunghe, capito? Non c'è assolutamente freddo, si sta benissimo, già dalle 6 del mattino io esco alle 6, 6, 10, 6, un quarto, capito? Vabbè, chissà, io non sia nulla. Deve piovere però, se non piove siamo ai casini. Seiya. Purtroppo noi siamo sempre a Genova, nuotano nell'acqua, eh? In Genova sempre i nubifragi e da noi non piove mai. Seiya, anche Sicilia lo stesso, no? Questo problema. Poi noi siamo ancora più in mezzo al mare, quindi spesso le correnti, i banchi di nuvole passano, non si fermano. Invece sarà che a Genova hanno quei monti lì che fanno da schiera, no? Si bloccano lì e precipita l'acqua. Stasera mi ha dato una passata, quando? Due settimane fa, o la settimana scorsa, ho fatto vedere in TV, mamma mia, cazzo, ma l'Alta Italia è una cosa allucinante, soprattutto la Liguria, sempre, sempre piove, sempre, prima degli altri posti piove lì. Seiya, Mimì, stanno venendo a prendere, Mimì. Qua si è fermata, Mimì. Stanno venendo a prendervi davvero. Ehi, qualcuno, ogni tanto anche qua vengo. Questo rione, beh, spengono la sirena prima di arrivare, fa un casino. C'è un torrimbomba quando entra qua dentro, mamma mia, il casino che fa. Infatti la spegne prima di entrare nel cancello, perché sennò è un casino. Si sono fermati qua, poco più avanti, all'angolo via Pruniceta, lì. C'è una terra, ma non credo che sia incidente. Forse uno è stato male, è crollato lì. Purtroppo, cosa capita, no? Va bene. Natalino, scelta di... E Natalino entra più tardi sicuramente. E Antonello Pomponio, dov'è? Molto poco. Seiya, sai che quando mando i messaggi nel pomeriggio, o anche a metà serata, non li legge, non lo so. Antonello ci sei? Ma anche quando chiami PMR non vedi nessuno. Cazzo, è anche se PMR, tu mi hai fottuto a me del PMR. Guarda, o è al bar, al distributore, oppure al circolo solito, da Nico. Cazzo, c'è la testa sua, ci vuole scendere a piedi da Nico per bersi una birra? Ma per carità. Vabbè. L'altra sera, un po' di giorni fa, prima eravamo gran parte della serata d'accordo, no? Al distributore. E lì una bottiglia, due bottiglie, tre bottiglie, io ne ho bevuto solo un bicchiere, no? Poi l'ho accompagnato a fare la spesa a Via Verona, poi dice passa qua, no, passa da qua, ho detto baba. E infatti si voleva fermare alle 9 di sera da Nicco a bere. Io ho detto no, no, assolutamente, io me ne devo andare. Poi dice no, 5 minuti, e già riconosco, gli ho detto, i tuoi 5 minuti, io me ne devo andare a casa. E quindi ho tirato dritto e l'ho portato a casa. No, non devo stare di notte nei circoli, no. Quella canzone, al bar a bere, al bar a bere, a bere al bar. E vabbè, ma lui ci è abituato, ci va spesso lì da Nicco, capito? Però lontano, che sto a scendere a piedi, poi tornare a salire, tutta una strada. Ma non ci ha mai preso la patente. Ce l'ha la macchina lì ferma in garage, non ho capito perché non se la prende la patente. Boh. Affiliati almeno uno scooter, almeno per girare. Guarda che io non potrei stare senza patente, sarei finito. Pensa che io all'inizio, no? Quando avevo 18 anni, non me ne volevo prendere patente. Perché ho detto, è difficile, non ne so fare. E mamma mi ha arrocciato. Come? Un uomo senza patente non esiste, te la devi prendere. Ma infatti poi è stata una cazzata. E sul libro ho studiato ben poco, io seguivo tutte le lezioni alla scuola guida, mi sono entrate proprio in testa, infatti promosso alla prima, guida e scritto. Guida non ne ho fatto io, guidavo senza patente già da qualche anno, quindi guida non ne ho fatto, ero abbastanza pratico. Sono andato e basta, anch'io subito la prima. Subito la prima, patente ci vuole, che per muoverti, per fare, capito? So che poi è un costo, la macchina, l'assicurazione, però ci uno lavora, io ho lavorato, ho iniziato presto a lavorare, capito? 16 anni ero già a lavoro, quindi potevo permettermi la macchina, c'avevo anche la moto. E vabbè, poi mamma mi aiutava tantissimo, quindi non c'erano problemi. Però è proprio come ha detto tua madre, uno senza patente cosa fate? Devi spostare, devi chiedere la cortesia agli altri. Noi abbiamo tutti a casa, io, mia figlia, mia moglie c'era lo stesso, c'aveva 18 anni quando se l'ha presa e guida tranquillamente. Esce, va, torna, quindi non c'è problema. Sei indipendente, è meglio, no? A me marito vivere in terra molto, ho ancora in Chivie. Rieccomi, sono andato a sbirciare un attimo, c'era mamma lì. Ho visto una barella, è qualche anziano che è caduto dal gradino. Anziana, non lo so cos'è, poi non vado a vedere. Ci sono gli sciacalli che vanno tutti a vedere intorno, io non ci vado, non mi piace vedere la gente soffrire, capito? Beh, forse qualcuno si è sentito male, qualche anziano che è caduto qualcosa, non lo so, io non vedo niente da qua, tu sei vicino. Veglia. E quelli in macchina suonando, e non lo vedete che c'è uno a terra? Pretendono che vada a parcheggiare con calma l'ambulanza e poi quello va. Beh, io pensavo succedesse più a mamma di cadere, e invece come ti avevo detto l'altro giorno, era caduta l'amica di mamma, sempre insegnante, è scivolata in via Lamberto su una cacca di cane, pensa, basta guardare dove si mette i piedi invece di stare con gli occhi all'aria, è scivolata sulla cacca di cane, si è rotta il femore e aveva anche osteoporosi questa donna, quindi adesso prima di guarire, ciu-ciu. Ti guarisce più, boh. Ma cazzo, cos'era mai dente le farfalle? Io ricordati, io quando cammino guardo un terzo davanti all'orizzonte, due terzi a terra. Io voglio guardare dove cammino, non so sempre a capo, io facevo mamma già sta a capo all'aria, sempre tiene il manico sollevato, no? E ogni tanto anche a casa strampa, ho detto guarda dove cazzo cammini. Beh, devono guardare per terra, non devono distrarsi, anziano e anziano, ci vuole poco a trovare un ostacolo e cadere, capito? Qui e poi tutti, quando uno camminava, guardava dove sta camminando. Un occhio smirciando a destra e a sinistra, ma guardare anche per terra, perché poi se c'è sempre qualche ostacolo, qualche imprevisto, è strampi. Capito, mio? Natalino, ultima chiamata per Natalino, guarda che sta partendo il pullman. Oi, oi, lunga la penichella oggi, eh. Ecco, visto che eravamo da Lido, no? Venivano sia gli amari soliti, no? Amari da 4 euro, però venivano anche il Lucano. Io, siccome ne ho provati vari, no? Io vorrei provare ormai, perché il Montenegro ha assaggiato, Jäger ha assaggiato, Amaro del Capo ha assaggiato, poi un altro, non mi ricordo come si chiamava, vabbè. Ho preso l'Amaro Lucano e il prossimo sarà il Braulio. Però il Ramazzotti e la Verna non li compro. Casomai me li assaggio in un bar qualche giorno. E se no una botte di 10, 12, anche 13 euro comincia a costare, capito? Adesso abbiamo preso il Lucano, vediamo com'è. Nulla ne sai, l'hai assaggiato tu? No, non ne bevo Mario, Marco, non ne bevo. Assaggio qualche volta al Montenegro, ma quando siamo in compagnia così in pizzeria qualche parte, se no io a casa non so niente. Non ne bevo, capito? Super alcolici non ne bevo io. C'ho un sacco di bottiglie, che a metà sono rimaste da quando c'erano i miei suci, ma non ne bevo, capito? C'ho anche mirto fatto in casa, buonissimo. Quando viene qualcuno, se magari le piace, ma io non ne bevo. L'unico che bevo è un goccettino di Montenegro ogni tanto così, ma quando sono fuori a casa non ne ho, non ne compro. Eia, no, noi già ne compriamo. Quando ne abbiamo voglia, dopo pranzo, dopo cena, un bicchierino piccolino, piccolino, sai quei mini bicchieri, un goccino di amaro è anche buono. Sì, adesso proviamo sto Lucano, vediamo cosa ne esce. Comunque il più dolce, il più stucchevole era il vecchio amaro del capo. Veramente è troppo dolce, troppo profumato, magari anche buono per me che mi piacciono i dolci. Lo Jägermeister era bellotteccio e anche il Montenegro, veramente buoni. Sono buoni, sì, sono buoni, però ti ripeto, io non sono amante, io bevo uno, due bicchieri di vino a pasto, a pranzo e a cena e basta, poi fuori non tocco niente, io sto tutto il giorno con la mia bottiglia dell'acqua, manco birra, nulla, qualche Coca-Cola fresca così, con ghiaccio e limone, che mi dissettava, ma per il resto no. Non sono amante di queste cose, Marco, anche perché a voi dice tu non hai già un gabbo e non comprende più un accidente. Ricetti, bambini, giocando col PMR, aspetta, prima metto la portante, come che viene il Bopoimi? Tutto bene, amici, ne abbiamo questi giocattolini, per carità. Ti spavento, dico, attenzione, mica viene Bossettimi. Poracci, non già li sento ogni tanto, quando sono col grande, con l'antenna, quella grande esterna, sì, col portatile ogni tanto sento qualcuno, deve essere qua vicino, se no non si sentono, capito? Casino fanno, me non parlano di niente, cioè fanno solo casino così. Almeno vedi, quando ero bambino io tutte queste meraviglie, il PMR, il PD non esistevano, esistevano solo quelle schifezze di portatili col tasto morse, me che come fibi dalla camera non prendeva più niente, erano proprio ridicoli, c'erano quanto, 1 milliwatt nemmeno, erano proprio una cosa demenziale. Per fortuna fortuna poi negli anni 80 sono usciti quelli da 49 MHz, quei portatili minimi. Certo, facevano poco di distanza, però per quelle distanze cominciavi a... Io ci parlavo con la ragazza di allora, me, che abitava di fronte. Le zozzerie che ci siamo detti lì di notte, mamma mia. Ma non mi senti a me col portatile? Aspetta che... col portatile della 27, aspetta, metto lo squelcio a zero, vai. No, col portatile PMR, col Vox, col Vox, non mi senti? E sai cos'è? Ci sono questi bambini che stanno occupando... Aspetta, vai. Sì, parla. Sì, sì, già arrivi. Questo è il Vox. L'ultimo. Mi ha una bella bestiolina. Non lo uso mai, sempre il tuo lato. Adesso te ne dico una. Stavo guardando su YouTube video a caso, no? E ho visto questo video di un negozio di software che vendeva il Baofeng V9 Plus, un V9 VHP, quello con 7 watt in 8 in VHF e 7 in UHF. E stavo dicendo che questo era omologato e la Prox, quando uno gli ha detto roba che era roba amatoriale, ha detto no, ma guarda che questo la Prox lo importa come omologato. Sì, ma omologato nel senso che c'ha solo 144, 146, 430, 438, quello voleva dire la Prox, che non è espanso, che fa solo bande amatoriali. E quel babbeo praticamente l'ha convinto che fosse di libero uso, capito? Io appunto gliel'ho detto, l'ho corretto, ho detto guarda che quando intende omologato Proxel vuol dire che fa solo bande amatoriali, non è allargato di banda, è solo però radio amatoriali, perché vedi io lo so, ma questi agiscono nella... non hanno idea di cosa hanno in mano, capito? Non hanno idea di nulla, di nessuna frequenza. Ma infatti la cosa che mi fa rimanere perplesso è che non si informano di niente. Quelle sono mie vaganti, sai. Quelle se lo trovano in mano, sono cacchi tuoi. No, questo è nuovo. È nuovo. Nella Vox. Va bene. Ah, mi sentivi? Aspetta, dentro casa, vicino alla finestra. L'antenna in gomma, ci arriva. E io, vabbè. Non lo uso per ascoltare, così per fare... A volte me lo porto appresso, ma giusto per ascoltare, niente di che. Madonna! Torna anche un pezzo di cioccolato, non diceva niente. Eia! Tanto pranziamo alle 8, però mi devo fermare, boh! Se no non pranzo nemmeno alle 8 di sera. Addirittura. Eia! Ah, gli ho anche specificato a quel ragazzo sul video, no? Che appunto la banda amatoriale era 144, 146, 430, 438, esclusi 434. E quelli sono assegnati sempre al Ministero della Difesa. Infatti ci sono i ponti di vigile fuoco, Pula, eccetera, eccetera. Insomma, questo proprio perché era omologato, secondo Luca Busoiu, quindi non va sulle frequenze PMR, si era registrato tutti i canali LPD, capito? Con un apparecchio che esce con 8 watt in LPD. Ui ui ui. È inutile, è inutile. Piacciono troppo questi Baofeng, piacciono a tutti, ce l'hanno cani porci, negri ed ebrei ce le hanno. Sì, è che sono giocattoli così. Non è un portatile, giocattoli sono. Boh. Qualità prezzo, questo che ho io costa 160 euro, cosa pensi ai costi di 2 lire? Fa tutto, tutto la vasetta. E vabbè, quei giubaletti si arrangiano. Natalino, a Bisese. Lì, ti faccio squillare il telefono, mi ti faccio entrare al baracchino, ti immagini, metti lì lo stecchino al campanello, un pomeriggio quando non entra in radio, è che quello spara. Se quello è pericoloso, se ti trova da raffigare i mitraglia. E un altro video lo stesso, c'era questo sito sempre di Softire che in minor misura lo promuoveva, come dire, noi lo vendiamo. E vabbè, tra l'altro io non devo dire nulla, già lo sai, no? Però almeno sono cosciente di quello che c'è loro. No, ho omologato la Proxel, si vengono i gigo, omologato. Mamma mia, troppa confusione. Eppure c'è il santo Ministero dello Sviluppo Economico che spiega tante cose, basta aprire quello. Sì, ma niente, pensa di essere chissà che cosa, di sapere tutto. Si dice che non rischia, non picca. Lascia di rischiare, che vuoi fare? A me poco mi interessa, io non ho niente da nascondere, perché la mia documentazione è superiore a quella, quindi non ne ho problemi. Però te l'ho detto, io questi non li uso perché non sono appunto omologati per PMR e PD. Se ne avessi avuto un omologato magari sarei entrato tutto lì, ma non me ne ho fatti nulla. Vediamo se c'è Valerio intanto ad Alghero. Valerio, mi dispiace, non sento più Giuseppe, porca miseria. Aspetti, mando la foto dell'antenna. Me l'hai già mandata tu? No, te ne mando un'altra, guarda a vedere che antenna è secondo te. Avessi un'antenna da 80 euro. Vediamo, dai. Valerio mi aveva mandato, diciamo, un pezzo di catalogo di quell'antenna. Ed è una KGV, KGK. Marche che non sono nostre, c'è la roba polacca, non lo so. Ma io dico, con tante antenne italiane, Sirio, che c'erano, è andato a comprare un'antenna ma è sconosciuta. Adesso te ne mando tutte e due, va. Proprio dove è montata e come è montata, va. Via, manda. Capito, il nipote è intervenuto a... Va. Lascia perdere, va. Te la giro piegato. Avrei chiappettato con l'antenna, con tutti i pantaloni, mi. Guarda, questa antenna avessi venuto di un'antenna la puoi comprare. Se non arrivi manco da noi, la Landriga. Sta caricando, piano piano. Me. Aspetta, sta focalizzando, mi. Ecco, una è arrivata. Ma cosa c'è, un'antenna TV sotto pure? Aspetta, apro quella che è arrivata, eccole qua tutte e due. Che, com'era prima? Lì c'era la Grand Play, è stata tolta la Grand Play, sono le antenne TV e messa quella nuova. Che antenna è secondo te quella? Una Ringo è chiaro, no, la radiale, c'è la bobina alla base. Però Valerio mi ha detto una Ringo della K, è una sigla straniera, mi. Aio, l'unica buona era la Ringo della Eco Antenne, punto. Se c'è la monobanda per i 10 euro della Eco Antenne è una favola, aveva ragione Maffi, non toglierla, non l'ho mai tolta, ma tu vedi la differenza che c'è con la tre elementi, vedi la Eco Antenne, molto semplice, non è molto robusta, insomma, però c'è una ricezione da favola, una trasmissione. Da favola, infatti quest'estate la tolgo da lì e la metto sotto sopra la tre elementi. Da favola, le antenne della Eco sono favolose, veramente favolose, hanno sempre funzionato bene, e anche quella che ho della 9 elementi della VHF, quella lo stesso è della Eco Antenne, quella la 12 elementi UHF lo stesso, anche quella della Eco Antenne, perché c'ho il traliccio grande e il traliccio piccolo, capito? Di due i sistemi. Nel sistema piccolo c'è la monobanda di 10 metri, tre elementi, le V e le U, capito? ma sono tutte e due delle eco antenne, vanno benissimo, tutte e tre delle eco antenne e vanno benissimo. Comunque volevo dire, se sali su nei messaggi che mi hai mandato, guarda che me l'hai mandata tu, antenna KGK Ringo 27, non so se sia quella perché sai, difficile vedere i particolari piccoli, può anche essere, ma vabbè. Eppure secondo me andava persino meglio la mezz'onda Energy mezz'onda. Non so, si è fatto tutto in fretta. Sì, te l'ho mandata io, quella lì è smontata, ok, quella. E quegli altri due che ti ho mandato adesso sono montate, capito? Quella lì. Vabbè. Cosa vuoi che ti dica? Non so cosa dirti. Ognuno fa come si di su e compra quello che vuole, poi però non si lamenti perché quelle sono antenne stracco barato che non servono assolutamente a niente. Peraltro sto notando che c'è anche un palo per alzare il tutto, non è nemmeno attaccato al tetto, nonostante ciò rende poco, ma non è che in zona d'ombra, Giuseppe, no? No, è Sant'Agostino abbastanza aperto. Capito? Eia, vabbè che tu dici anche Valerio Licio, non è che arriva così, però te Valerio Licio arriva a 9, invece Giuseppe quant'era? 3, 4? In mezzo al VRM arrivi, mentre prima con la Grand Prix arrivava a 7, quando attaccava arrivava a 8 e mezzo, adesso quando attacca mi pare che sia 5, 6, una cosa del genere. Però se non c'ho QRM già lo sento, ma siccome in questi giorni c'è sempre QRM, non lo sento più. Ricordati l'ultimo messaggio vocale che ti avevo mandato io. Sì, già lo so. Però nella realtà si è abbassato tantissimo. Arrivava molto meglio prima, capito? Così impara a rivolgersi ai professionisti. Vabbè, dai, esco, non mi posso mettere i problemi degli altri, io già me la sono messa l'antenna che volevo, me la stavo tentando, ho detto la voglio leggerissima, poi se ci guardiamo meglio ancora. Ci sono tutti i radiali, nonostante il vento che ho fatto in questi pochi anni, ci sono tutti i radiali. Già li ha stretti bene Popponio mio, non è salito sul gabbiotto. Buonasera. Buonasera. Ciao Gianfra, buonasera, ben ascoltato. Ma infatti i radiali vogliono messi bene, stretti bene, il lavoro vuole fatto bene, se no non serve a niente. Avanti Gianfra. Ciao Claudio, ciao Marco. Ben ascoltati in questa giornata estiva praticamente. All'uscita luna c'erano 27 gradi. Detto di raggio Marco, io ci avevo 25 gradi, quasi 26 della zona di Trinità, che è più arieggiata, quindi Sassari ha toccato il 26-27 lo stesso. Vai Marco. Sì, è vero. Ciao Gianfra, è vero, io guarda che sono uscito in maglietta, una maglietta pure scollata anche, maglietta a maniche corte per andare da Lidl, da Corso, cioè ancora non c'è, mamma giubbotti, golfi, ma quando mai, vabbè che lei magari essendo anziana lo sente di più il fresco, maglietta, sta bene così ti dirò, anche ieri mi quando sono andato in quella zona di mare, in maglietta ero, stava bene, sì c'era un po' di brezza leggera, ma stava bene ancora. Cos'è che mi aveva detto mamma? È ottobre, c'era stato un anno che appunto a ottobre inoltrato eravamo a maniche corte ancora. Chissà che non sia così anche quest'anno. Speriamo di no, perché la situazione è veramente seria. Da me ha un po' di crescere le piante, stanno crescendo le pietre perché se ne ha portato via tutta la terra. E comunque c'è da stare attenti perché lo sbalzo termico in micidiale, io adesso stavo sparando un po' di colpi e perciò ho rinunciato perché inizia a esserci quell'arietà strana, no? Non dico fredda, però umida più che altro, e quella è molto pericolosa, soprattutto quando prima eri con 25-26 gravi e poi il corpo come scende. Infatti ci sono giorni che un giorno esce maglietta, il giorno dopo magari deve uscire con una bella felpa, una camicia anche felpata, ma limite camicia più felpa. E quelli che fregano, infatti. Passare dal freddo al caldo, dal caldo al freddo. Mi sa qualcosa al mio collo, il mio naso, la mia gola. Cappa, vai Claudio. Adesso già cambia il tempo, vedrai che già cambia piano piano, vero Gioffre? Via, buona a tutti! Buonasera, sono Fabio Gianni, giusto? Gianni. Io non lo sento già, sono in zona ombra per lui, dai. Ma avessi appunto, stai rientrando? Sono a Sassari, esattamente di fronte al Walter, il meccanico. E dove già? Cecchina Masmeraldo, lì sono. Ah, sta arrivando bello, forte. No, no, vai bene. Guarda, perché Claudio mi senti come a Porto Torres? Stiamo lasciando la pugnalata. Già. Io la porto quando esci da lavoro sei 9-5 volte. Quando sali a Monterraggio mi fai 9-10, 9-15. Sì, così, stesso segnale, 9-5, 9-10. C'è quel palazzo alto dove c'è Manuela, lì, c'è quel palazzo alto. Sì, vabbè, comunque già ti sento bene, non c'è problema. Anche Gianfranco ti ascolta 9-20, nella zona meccanica, però tu non lo senti, vai Gianfranco. Sì, infatti stavo controllando come mai. Sì, ho solo per due passi, quindi in antenna dovrebbero essere un passo e mezzo. Aspetta che aumenta, perché l'avevo lasciato così perché non mi corro e non mi piace uscire apposta. Ecco, vediamo un po', porta 5 watt, aiuto, salvi. Vediamo un po', ecco Gianni, mi senti ora? Già, ma non senti la Gianfranco. No, c'ho gli splatter dal canale 20, non sento nulla perché sono in via Passo, c'ho gli splatter, capito? Mettili la portante. No, tutti l'usano, ma gli altri sono andati. Però sicuramente stanno usando potente perché ieri stavano dicendo adesso scalda di più, esce più forte, quindi stavano usando potente sicuramente. Ah boh, io già non sento nessuno, con i trattati sui ribiazzi. Va bene, va bene. È anche molto selettivo questo Galaxy, non sento niente. Sembra che sto usando il 440. Bene, ti arrivo già fatte. Infatti io arrivo a casa e attacco il Galaxy, Claudio. Problemi non ce ne sono, nemmeno per me. Il Galaxy non sento più nessuno. È molto selettivo già, infatti, non me lo ricordavo che fosse così selettiva sta radio. Bene, mi ascolti già. Che ti ascolto bene, Claudio, ti ascolto benissimo, va. Ieri in farmacia, stamattina mi hanno fatto di nuovo l'operazione al piede. Cosa? Vabbè. No, stavo dicendo a Gianfranco se mi ascoltava bene. Gianfranco. Benissimo, 9.35. La radio, calma, tranquilla questa volta. Ah, oddio, sento chiaramente il amplificato, la radio va bene. Benissimo, si sente il coro, tipico del amplificato, quando preme il pulsante sente tac, tac. Ehi, ehi, microfono di tavola, No, mi piacciono i microfoni da palma, anche con i baracchini, ogni baracchino c'è il suo microfono da tavola, già fa, questo è un più 5, modificato e vabbè, ci parlo a 30 cm, piano piano, così. Funziona bene. Vai Marco. Stesso Marco è da risico, ma niente cioccolato. Allucinante. Un porco. Ma come fa a poter capire tu? Come fa? C'è uno struzzo. Mangia anche la ghiaia. Quindi fa le uova. Allora, sicuramente fa le uova, sì. E tutta la sera la rotta gente. Comprato il cioccolato con le nocciole, con le cose. Tutta la gira lo seguenti. Marco. Ehi, già, va bene. Tutta la gira lo seguenti. Cosa vuoi che ti dica? Marco, lascia stare il cioccolato, lascialo. Aspetta che sono sul 20 che sto facendo la consulenza. Mino, comincia a rompere le palle, quando sei qua rimani qua, lasciamo avviso che ti sposti. Il pizzino, capo di fuma. È un bel furbo. Parecchio anche. Vediamo cosa sta dicendo sul 20, vediamo. Cos'è che stavi dicendo? Consulenza, la consulenza di Rendi, sempre vendi con parabola HFG. Marco. Successo, consigliamo, gli dico F l'equo elettronica, Firenze, Livorno, Quebec, e lui dice CQ elettronica. Asco, io getto la spugna, Claudio. Non ho capito. Vai Gianfra, vai. Dite che l'usore c'è che la figa. E così si dice? Non ho capito, credo, quello che ho detto prima, facciamo comprare UHF. Ma dei consigli dai, Marco. No. Vorrebbe Graziano il CRT 7009, che è praticamente identico allo IESU 7009, ma ingrandito, ed è un apparecchio CB. Ti ho detto, sembra un VHF, no, di VHF no, a parte che ce l'hanno già, quindi inutile consigliarle. Sì, io mi sono trovato bene, solo che sai cos'è, Claudio e Gianfranco, che c'ha menu, sottomenu, non è adatto a Graziano l'apparecchio. Meglio avere tutto tipo 3009, tutte le manopole qua davanti, sai già cosa toccare, lì c'è menu, se pigli il piccolo, il 9009, c'è menu, sottomenu, non è adatto a lui, dai. Hai visto la scritta che hanno messo su Media Globe? E cioè? E poi c'è tanta gente che è fissata, vuole comprare i digitali e non sa neanche che cosa sta comprando. Evidentemente siccome le hanno rotto le scatole tante volte, cioè, chiamando, magari chiedendo ma non funziona, ma qua là, ci hanno messo nel reparto di MR un avviso, si prega di ricorda che per acquistare questi apparati bisogna avere un minimo di preparazione e soprattutto delle nozioni informatiche. Chi non è in grado di fare questo è pregato di non comprarle in parole povere. Quello sì, ma pensa che c'è gente che non sa nemmeno, cioè l'UV5R lo puoi programmare sia col computer sia a mano, il canale li mette in memoria a mano, beh non sanno come fare, allora tormentano il negoziante, tormentano amici, tormentano conoscenti per riuscire a mettere una frequenza, e vabbè. Sì, comunque hai detto bene, certe persone non dovrebbero toccarne nemmeno, visto che non sanno fare niente e ti chiedono e cos'è l'FM largo e stretto, e cos'è la canalizzazione, cos'è tutto, non sanno niente, vabbè. Poi si è sentito poc'anzi, su YouTube c'era il video di un venditore di Softair, no? Che presentava questo bellissimo UV9RHP, quello che ha 8 watt in V e 7 in U, e aveva il coraggio di dire che era omologato, no? Perché la Proxel, quando l'hanno ripreso dicendo che era roba amatoriale, lui ha detto che la Proxel lo vende come omologato, capito? Quindi secondo la testa sua era omologato. Allora gli ho specificato che casomai era omologato nel senso che copre solo le bande amatoriali, che non è espanso. Gli ho spiegato 146, 140, cioè 44, 46 e 430, 438, con l'esclusione dei 434. Capito? Siccome la Fox era omologato, secondo Lugabo Zui era omologato come un PMR omologato, capito? Allucinante. No, allora... quando intende praticamente che è omologato per il civile, e di lì devono essere omologati. Per il radiomateriale non c'è bisogno di omologazione, perché se il momento che li possiamo anche costruire noi, capito? Ma quello non è civile, è proprio chiuso di banda, solo esclusivamente a banda amatoriale, cioè non espanso, mi quello la Proxel voleva intendere. Infatti cosa ha fatto il tipo? Ha memorizzato solo canali LPD, solo canali LPD ha memorizzato, Chi è? Questo è un ciocco. Vabbè. Contenti loro. Io sono ancora più contento. C'è anche la propagazione, eh? Infatti, proprio qua stavo girando un po' in HF, visto che c'era un po' di propagazione. E per forza, parliamo di sì, che... È la stessa cosa di quel cacciatore di quella volta, no? Ho detto, guardate che per certi apparati ci vuole una patente. Una patente è quello, ma io sono guardia giurata, posso usare tutto. Capito la mentalità italiana? Ma qual è intelligente, no? Ha studiato. Aspetta, non ti ho copiato, ripeto. Tra fitagando non ci bruciano con la mano, mentre ha fatto molti a scepola, che anche uno per gredi. Occhio alla penna, che c'è di nuovo l'avversario in giro. Stati attenti, fate da bravi. Avanti Gianni. Ma questa è un'ignoranza, magari gente che è convinta che siamo lì davvero, ma poi in effetti non tutti. Ma per fare la concessione, perché lui per l'ambulanza avremmo praticamente la concessione su l'incarico HF. Tu fai la bravo, perché se non intervengo io in quel periodo che c'era, mi ha telefonato Giampaolo di Porto Torres, ma non Giampaolo Silvestro Bonanima, Giampaolo RC2. Lui è. Concessione per usare. Allora la concessione per usare è 43 mega, che è un VHF a 43 mega, ma stavate usando la Linco, avevate due Linco avevate, VHF, banda amatoriale che non potevate tenere, lo usavate in frequenza alta, quindi anche fuori banda. Il giorno che è intervenuta la postale con l'esco radio, oggi mai ritornano tutti, presidente e vicepresidente. Allora Giampaolo RC2 mi aveva chiesto la cortesia a vedere cosa dovevano fare. Ce l'avevamo visti, gli avevo consigliato che cosa dovevano fare, e tu figurati che i VHF che avevate voi prima, io l'ho tenuto fino a 2 anni fa. Li avevamo comprati io e uno Torre, la buona anima del Torellai. Capito? E con quei soldi loro avevano messo i 43 MHz nell'ambulanza. Figura dei due. A farle con la testa le cose, capito? Farle con la testa. Perché molta gente è convinta che le cose vanno fatte con i piedi, vanno fatte con la testa. È un reato, è oggi come oggi è un reato, avere apparecchiature HF, VHF, VHF senza la patente amatoriale, senza essere animatore, è diventato un reato, ti arrestano. Usare, prego. No, beh, della Croce Blu già lo so, Croce Blu a Valponte, ma quella è una concessione ministeriale con tanto di documentazione, poi la frequenza era segnata ed era civile, VHF ma civile, era sopra i 160, capito? Invece l'amico Giancarlo con tutti gli altri, quindi sai bene la situazione, trasmettevano a 143 qualcosa, capito? Così, ambulanza, sede, tutti in VHF, poi si erano spostati a 146, allucinante. Infatti lo controllo della polizia con l'esco radio incrociato, hanno filmato tutte le ambulanze, hanno sequestrato tutto, si erano salvati perché, ti ripeto, Giampaolo RC2 mi aveva subito contattato e allora tramite la sezione di Sassari, avevamo riusciti un po' a mettere le cose a tacere e avevamo comprato le radio, una io, una Tore e un'altra pure ce n'era, quella della sede lo stesso che era un VHF, e con quei soldi hanno comprato i 43 mega e hanno messo i 43 mega nelle ambulanze, ma roba da matti. E già mai andare finiti tutti quanti in galera, già era in Catardaredo Giampaolo RC2, tu Giancarlo viene Verriado là lì, si tindina la Ginara già, no della Croce Blu lo so, ma oltre la Croce Blu c'è anche il Soccorso Sardo che c'è il ponte col 118, capito? Quelle sono cose che sono state assegnate al Ministero e ci sono costano un sacco di soldi. Ma voi quell'esordio me lo ricordo come oggi, fisso Maria Gara. E poi che era andato, mamma mia, il numero uno dei numeri uno delle scorrate, Sant'Antonio mio, mi ha spulciato Gianfra tutto, dall'A alla Z, guarda, ha fatto un verbale da lì, quattro pagine era, e giù mai qua vanno a finire male, per carità. Vai, riprendi Gianfra. Io mi ricordo che gli avevano sequestrati anche i vigili urbani, credo di Porto Foto, se non ricordo male, perché non avevano la licenza e comunque gli apparati non erano conformi, perché devono avere caratteristiche particolari e essere omologati per il civile e poi programmati per quella banda. Quindi succede. Sì, hai pienamente ragione, perché mio cognato l'ha lasciato le vigili urbane, fottore. E quando gli hanno dato quegli affari, tu lo sai che cos'erano? Erano della ICOM, quindi a frequenza libera, capito? Loro erano a 472, una cosa del genere, in UHF. Erano della ICOM. E quando, mi ricordo, mio cognato, hai pienamente ragione, mi aveva telefonato un giorno e mi ha detto, tu nuda non c'hai, sei in mezzo alla radio, ci hanno dato i portatili nuovi, non ha giù compreso nuda, ho portati, scusa, non sono canalizzati. Avete il canale, ma voglio canalizzare un po' con dati, tastini, va una tastiera. Vabbè, insomma, quando scendo la mamma me lo fai vedere, portalo, vediamo un po'. Uguale a quello che c'avevo io era, preciso identico, e nella macchina, è uguale a quello veicolare della ICOM, nelle macchine, nelle pattuglie, hanno sequestrato tutto, hai pienamente ragione. Adesso ci hanno i civili omologati, canalizzati, capito? Sia al comando che delle macchine, e anche quelli che portano appresso loro sono omologati civili, capito? Già me lo ricordo, sì, sta roba la mano. Ma guardami tu, un comandante o un sindaco, un comune, chi ha fatto questa cosa, ma quando mai devi fare una cosa del genere? Cioè da farti arrestare. No, comunque siccome ho controllato, non vorrei sbagliare, ma ora come ora ho visto che in macchina c'hanno solo le antenne, non c'hanno niente, usano i cellulari, così il portatore. No, già c'è, nella macchina, in una delle macchine nuove c'è. In una delle macchine nuove c'è, mi pare che sia quella l'Alfa, c'è. In altre no, non ce n'è, non ce n'è. C'hanno tutti, ce n'è uno al comando del radio e poi i vigili hanno. No, già ce l'hanno, visto, c'hanno il microfonino attaccato, già ce l'hanno, non so se da tanto senza vedere, ma io li ho visti da poco, sono sceso al produttore se ce l'hanno. E poi i motociclisti ce l'hanno la radio nella moto, come quelli di Sassi. Vai Marco, vai. Quando vi imparo più bello che di legge un giornale vanno arrestati tutti. Manco le sigarette vi porto. Perché? È da 2 anni che stai dicendo, adesso sequestrano tutto, cose, registrazioni. Non credo niente frega un granché del PMR, dai, ci sono cose più importanti da pensare. Comunque vedi, che lo faccia un privato, una fesseria di pigliare una radio che non va bene, ma che lo facciano colpi con vigili urbani, eccetera, è più grave. E poi 43 MHz, cosa c'entravano? Chi è che ha 43 MHz? Il CISOM, le ambulanze hanno i 43 MHz, cosa vanno? avevano. Io so che hanno, io ho visto da poco l'ambulanza, altrimenti c'è 43 MHz. Ah, può darsi che fuori Sassari, sì, perché ormai a malapena, mi pare non ne stanno più usando nemmeno i cosi, nemmeno i tassistimi, o una banda finita male, non esistono più apparati nuovi, non esistono più antenne in vendita per quella banda, l'hanno abbandonata. È una frequenza che è nata male, finita male, come le... l'SRD 860, 10 milliwatt. Sì, vabbè, però almeno di regola. Ma ho visto un'ambulanza del di Sedini, per misericordia di Sedini, cioè 43 MHz ancora. L'ho vista da poco perché era successo un incidente, c'ero io lì vicino, l'ho vista la radio. Vabbè, comunque, Marco, tu pensala così. Ricordati che quello che non è successo in tanti anni può succedere in 5 minuti, ricordatelo sempre. Ci siamo già passati, capito? Quando sembrava che tutto era fermo e messo a tacere, in 5 minuti hanno arrivato un casino di Gesù Cristo, non qua a Sassari, comunque. Ti ho detto le poche parole, poi ti ripeto, a me non me ne affutti nulla, stiamo facendo questo e basta, non è che, però c'è gente che deve usare più la testa che i piedi, capito? Vai già. Io i piedi non li posso usare, perché la giuro che me la riparerò dopo. Ma cosa ti hanno fatto? Di nuovo ho tappato il buco? Vedi che è mosso, pure i cellule sono mossi, va bene, quindi se dorme malattia, va bene, almeno te riposi, vai Gianfra. No, ti corretto, sono in piedi. Meglio così, va bene, io vado al prossimo mese, questo mese non lo so se ce la faccio andare perché devo ultimare un sacco di cose, vai Gianfra. Siamo perciò, mi sa che ci vado qualche settimana a dicembre, forse. No, a dicembre vado dal, io ho già prenotato, dal 23 al 3, dal 23 al 3 gennaio, chiudo così, capito? Chiudo così. Mi faccio capodanno, fine anno e vabbè. E basta, quell'epifania, tanto mi pare che sia un giorno come tutti gli altri. L'epifania, tutte le feste si porta via. Di tizio e bocca nel gasino, Marco. Via, via. Vabbè. Peccato però per 43 MHz. Una frequenza interessante. Te l'ho detto, gli apparati principali erano sempre i soliti, e cioè Intec e Midland, poi c'era qualche apparato di contorno di altre marche, però tutto sparito, niente, non si trova più niente. E vabbè, la riassegneranno a qualche altro servizio in futuro, boh. Ma i taxi cosa c'hanno, Marco? C'è scritto radio taxi, cos'è? Guarda, loro stavano sui 43.5 o 43.5 fruscia, non mi ricordo bene, passato troppo tempo, e intorno ai 43.5 mi pare. E c'era una signorina che chiamava i vari taxi, no? E diceva di recarsi in tale zona, eccetera. E davano la conferma, capito? Ma io non ascolto da secoli, secoli, non ho più interesse, non ascolto manco più i radioattori. C'era una signorina che dava un buongiorno a tutti i tassisti davanti, e poi praticamente mi mandava dove chiamava, mi mandava e poi mi dava una conferma, ma non ci si può. Qua viene prendere una signora a fare la spesa, la porta in giro eccetera, viene, a volte viene il figlio di Antonio, RV, Antonio in pensione, e ha girato la licenza, la macchina, tutto al figlio Alessandro. Capito? Adesso c'è Alessandro, Antonio è a casa. Ogni tanto ci sentiamo su WhatsApp, due fesserini, per carità. Via, riprendi Gianfra. Sì, comunque c'era abbastanza traffico e c'erano abbastanza chiamate, mi ricordo. Tra 43.500 e 300 con il 2.5, eccetera. E sì, un po' non si sente. Mentre 40, 40, 41, in quelle zone lì si sentono le parrocchie dei vari paesini. C'è un sistema radio che stanno perdendo a un costo iperbolico, delle radioline che non guardano neanche, per carità del cielo, ma è già tutto, e si sente la messa, allora della messa se lo spengono, quindi ci mettono Radio Maria. Oh, ma che sono radiomicrofoni quelli delle messe? No, che hanno una mini grappling su campanile. Servono per la gente di paese, no? Che per varie ragioni, perché all'età, eccetera, non può andare, sono troppo anziana. E quindi si accende questa radiolina che le forniscono loro e ascoltano la messa. E ovviamente le vale come se fossero lì. Sì, 40 e qualcosa, da 40 comunque è 41 e 9, una cosa del genere, adesso non me la ricordo, però io lo dicevo abbastanza bene. Aspetta, c'è il microfono che lo manda a un apparato un po' più grosso, che è collegato all'antenna, ecco, lo radia, una specie di broadcasting delle chiese. Io ho sentito di propagazione delle messe in FM, erano delle messe in inglese le FM, però c'è che usino anche il baracchino in certi punti, in Inghilterra presumo, e sentiva questa messa chiara chiara in FM di propagazione, infatti il segnale saliva e scendeva molto. Però c'è che sia il baracchino, gliela mandino anche tramite baracchino la messa, boh. Anch'io parecchie volte, ma quelli sono più studi, a noi sembra molto meno, no? A me adesso raga, io vi saluto, dai. Se ci siete a dopo che vado a portare il cane, dai. Ciao. Ciao Fla, passeggiare. Ciao Fla, buona serata. Anch'io ti guardo che a ruota, che tra poco sono arrivato di tutto. Buona serata a tutti, ci sentiamo più tardi eventualmente. Ciao. Ciao Fla, ci sentiamo. Buona mangiata. Ciao Gianfranco, buonasera, buon tutto e buona cena. Ciao Claudio, buona passeggiata. Oh Gianni, a questi dei paesi, no? Pensa che l'FT857 fa tutto, tutta la KF, poi dai 30 ai 56. Vai in isofrequenza dove trasmettono la messa, metti la potenza alla manetta e comincia a bestemmiare, e le vecchie dentro casa sentono le bestemmie. Una volta ci si divertiva molto di più, dai, con un banale ricevitore. Adesso finita l'epoca, finito tutto. Siamo finalmente soli, Gianni. Sì, no, secondo me compra un ricevitore non ne vale la pena, era interessante molto anche i telefoni, i cordless non omologati, 46, 49, 49, 70, 49, 1,8 MHz, e intorno a tutte quelle frequenze lì che abitavano. Poi i cordless sono passati, sempre i non omologati, ai 900 MHz in chiaro. Anche lì sentiva, anche il nostro era in chiaro, ma noi dicevamo di tutto, pazienza per chi ascolta. È stato inevitabile. Poi hanno, sono arrivati quelli digitali lì, come si chiamano, ed è finita la pacchia. Per non parlare di cellulare in chiaro. Sì, il cellulare. C'era più di trattimento. Qual è l'ascolto? Molto di più. Molto, molto. Vabbè. L'età dell'oro. Chissà che in futuro non si abbassino i prezzi dei ricevitori digitali, perché l'unico che c'è adesso della AOR costa 1,5 milioni, cioè 1.500 euro. Ma puoi ascoltare anche quelli più criptati? No, se sono digitali, ma è chiaro li senti, ma se sono digitali criptati, e ti assicuro che li criptano, non li senti, quindi è inutile acquistarlo. I più piacevoli c'erano criptati solo per quelli. Un punto perché le forze di polizia possono criptare, gli unici che possono cifrare, diciamo, meglio le comunicazioni, dai. Tutti gli altri non possono, né baracchini né radioamatori, credo, a quanto ne so io. E va bene, pazienza, ce la prendiamo in busciacca. Ehi, poi i radiatori, lo sai, entrano quando ne hanno voglia, cioè ben poco. Più che altro entrano dalle 9 in poi. Dopo cena mi senti qualcosa dei radiatori, da noi i soliti. Però purtroppo in HF non ho più quell'apparato. Il Texun me l'ho venduto, quindi in HF ma la terra non sento più niente. E ti dirò che non ne sento la mancanza. Sì, allora gli ultraleggeri io li avevo sentiti, aspetta, dove? A Platamona, era una frequenza tonda, proprio tonda, tipo 129 o 130, proprio tonda tonda, punto 000. Poi però non, cioè loro parlano solo di atterraggio, di decollo, due fesserie, un po' peggio degli aerei di linea. 130. Sì, mi era capitato per caso. Avevo inserito il close call dello scanner, no? E lui praticamente i segnali vicini te li fa sentire, ti appare, ti lampeggia il display e la luce. Tu premi il tasto e ti fa vedere la frequenza. Mi era capitato a Platamona, ma ho detto bussa via, non dicono niente anche loro, cioè non è un baracchino, loro non possono stare, è una banda seria, capito? Ma loro usano solo l'atterraggio, si chiede l'atterraggio, loro dicono che lì, però capisco queste cose qua. E io sono anche andato per la pista di volo, devono fare anche far fare un giro, ma non ci sono andato. Io temo a volare, con l'altezza non vado tanto d'accordo, ma questione di abitudine. Via. Se immagini avere la radio, entri, guarda che mentre tu sei in giro a volare, tua moglie ti pone le gorri. No, ma non è quello il problema, il problema è che non sono sicuri quelli aerei, sono capitano una picca di vento, capi di sposta, dice tu inizi. No, non sono sicuri, sono troppo leggeri, capito? Ma non vale farci per la giornata. Soprattutto se sono senza cabina, sai quelli proprio dove sei all'aperto con la tuta del casco, preferisco gli ultraleggeri con cabina chiusa, che sembrano degli aerei, ci hai capito quali, dai. Ah, mi ricordo sto nome, non per la radio, però per altre cose. Se non sbaglio, ma mi era sembrato di leggere che non puoi montare baracchini su mezzi aeromobili, su aerei, mi. Però quello dico, quello nego, potrei ricordare male. Non so perché. Non so perché. Si superano magari la console, il comando. Ah, non lo so. Non so perché. No, forse per evitare di disturbare frequenze aeronautiche che sono in AM, non lo so. Ma ci voleva Gianfranco qua, gliel'avrei chiesto. Oppure ho letto male io, sto ricordando male. Ha fatto un giro dove? In UE? Oh, già lo sai come sono, sì, io ho le pantofole adesso. No, adesso. Mamma mia, per carità, peggio della Banca Nazionale del Lavoro. Ma perché non sai cosa ho fatto? Ce n'è uno solo. Stava centralizzato tutto quanto lì all'entrata dell'ospedale civile, proprio l'entrata principale. E invece la sinistra c'è tutto. Devi prendere il biglietto, qui a mezzogiorno praticamente hanno una scelta dei biglietti perché ci sono le elezioni che non puoi più prenderli, quindi devi andare prima di mezzogiorno. Figurati, ma al CUP per cosa? Per fare esami? Perché per prenotare basta il telefono, giusto? No, non accetta che non vuole. No, per prenotare, vuole il CUP, se no non se la accetta, il dottore ha detto che sbagliano tutto, per telefono, che è tutto l'altro, che non c'è capito un capo, che si deve andare in persona, verificare, quello che scrivo, eccetera, eccetera. Grazie a Dio, ma a febbraio. Dio ce ne scampi dalla sanità italiana. Poi se non ritornato, ma non male che molte persone, ma per via fortuna, si sono scocciate, quindi non penso che sono andate, ma erano 60 che se ne molte, ti parlo di una ventina di persone, se ne sono scappate, perché una alla fine si annoia a fare certificatori, ore e ore. Sì, non è umano, dai, siamo ancora proprio roba del terzo mondo, Roba da terzo mondo. Dopo l'Italia è un paesello che va male in tutto. Qualcuno la chiama l'Italietta degli italiotti. Chiama la due TV, ci sono trasporteri di cui uno, sono quattro trasporteri di cui uno è solo per il recupero, tutti gli altri per la prenotazione. Ehi. Noi dovremmo fare le analisi del sangue, la mamma anche delle urine mi pare, ma noi andiamo al Conti, poi mi pare non li analizzano, ma credo li portino altrove comunque, al Conti, hanno chiuso anche dentro, prima entravi con la macchina al Conti, adesso no, entrano solo gli addetti ai lavori e noi dobbiamo parcheggiare fuori, se ce n'è. Ma che bisogna ce n'è al Conti, vai alla Tenocchio, vai a No, ma ti dirò, sai cosa, al Conti non c'è pochissima gente, poi vicino, non privati, però pubblici, le solite cose, no, emocromo, glicemia, mamma mia, e poi tutto il resto, dai, non mi ricordo come si chiamano gli altri, glicemia, vabbè, il colesterolo, che non credo però, il colesterolo io no, sono anche magro, dai. Stiamo mangiando molta carne, molto pesce, quindi il colesterolo credo sia a postissimo. Quello che temo è la glicemia. Insomma, un esame di base, diciamo, abbiamo chiesto, dai. Adesso le sigle io non me le ricordo, quelle scritte nell'impegnativa. Però un esame di base, dai, per vedere se ci sono scompensi di qualche tipo, dai. Se sono un po' anemico lo so già. sono la soglia minima, non troppo al di sotto, ma la soglia minima, proprio a filo. E dice mangia carni rosse, eccetera, fatti la cura di ferro, ma una volta che finisce la cura di ferro, tu punti a capo. Devi mangiare carne di cavallo, oltre a fare, diciamo, la cura di ferro. Praticamente devi continuare a mangiare carne di cavallo, che sanguigna fa bene. Asco, io devo fare una cura a base di figa, vedrai come mi passa tutto. Ma saluta Gianni doppio root. Ciao caro Gianni doppio root, come mi sei simpatico. Vedi, fa le voci da scema, però passa a parlare normale. Ciao Gianni. Ah, il mio. Questo è proprio un grande onore sentirti dire certe cose. Mi fa un grande piacere. Però gliel'ho detto, ma parla normale, ciao Gianni, no, lei deve... Oh, sexy voice, sexy voice, quando siete Claudio, no? Perché le piace molto la voce di Claudio, capito? Fa la sciantosa, mi. Poi comincia a somigliare Lucia del mattino, ti dico, caro, dove sei, caro? E poi era una racchia. No, parla normale però, ma... Doppio lungo, ce la facciamo una storia. Appoggia. Aia, aia, guarda che a me mi chiamano già il caldo. Oi, oi. Bene, bene. Io sono quello di casa che... Capito? Sono il più freddo, diciamo. Gianni il caldo, Gianni il duro. E Gianni è messo male, poi oh, yeah. Se lo quasi tutti non si muove su bene. Guarda, perché è diabetico, una seccatura. Così come la mia cara mamma insegnante mi l'ho detto, tu non c'eri, è caduta. Lei aveva già l'osteoporosi, è caduta, si è rotto il femore, adesso bisogna vedere quanto ci mette a guarire con l'osteoporosi. È bello che è caduta sulla cacca. Ah, te l'ho detto, sì, è scivolata su una cacca di cane. Perché qualche cretino ha fatto fare la pupù al cane e non ha pulito. E purtroppo adesso è in un istituto dove un po' fa fisioterapia, non so dove sia, mi pare a San Nicola, ma San Nicola non è un ospizio. Tu stai attento perché scivola nella buccia della banana. È vero, è vero. Insomma, dovrà fare un po' di fisioterapia dopo questa donna, quando si risalda sempre il femore, agli anziani come cadono si rompe il femore, è proprio una cosa. Ciao, sexy voice, come ha detto mamma. Ciao, ciao Liu, legalo a questo ragazzo, legalo ogni tanto. Dalle una legata con la corda, perché l'elastico lo rompe. Ehi, mi ricordo una battuta. Ecco, Claudio, mi ricordo una battuta che aveva fatto Ivan, no? No, non una battuta, una cosa mi aveva detto, che quando il padre era stato male, no? Che era... non ci stava con la testa, hanno dovuto legare i polsi al letto per evitare di farsi del male. Io sapevo già di questa frase, no? Quando se uno si alza scappa dalla corsia, insomma. E lui si è preso la parte grande, ha detto, ma guarda che è necessario, quando la persona non ci sa più la testa, per evitare danni più gravi, li devono immobilizzare. io gli stavo per fare una battuta, gli stavo per dire, a parte che Giuseppe andrebbe legato anche da sano. E da prima lo dovevamo legare. Vabbè, non ci vuoi fare, così è. Devo via io, su già bucio io. Sono le 8 meno un quarto e già bucio. Vabbè dai, io vi ascolto che devo passare il fornelli, ok? Tenetevi salutati e ci sentiamo domani. Se ci siete dopo, che devo preparare il pesce, quindi necessita la mia presenza. A dopo. Ciao Cla. Ciao Tatalì. Ciao Claude. Ciao Claudio, Natalino, ma ti sembra ora di entrare? Ti abbiamo chiamato tutta la sera. Ma io non ero a Sassari, ero fuori. Beato te che sei uscito almeno. Allo Marco, in compagnia di Gianni, doppio rum. Dove vai tu a lavorare? Accompagnare e marcarci a due persone che sono venuti a fare visita a mia moglie. Non capisco che chi sono. E come fai a sapere chi era? Io sono il dubbio, lui è indovino, lui è la sfera di cristallo, mi vede tutto, vede il futuro e c'ha la telecamera Gianni, capito, vede tutto a colori. E dove, come sono partite, nave? E allora, quella nave di Batman. A me piace vedere la partenza delle navi, non lo so, mi dà una certa malinconia. Ma io Marco, sto venendo a Piatta, io ce ne andiamo a Genova. Io andiamo a vedere dove sono nato. Se non ci fare il biglietto, pagarci un po' di soldi, faccio un giro, fare i shopping, cosa ne so. Cioè, oppure ce ne scappiamo tutti, così molliamo le nostre famiglie e rimaniamo al diavolo. Perché a Genova c'è nato? Certamente, nato a Genova. Però poi dopo un anno era un viaggio, diciamo, di piacere. Ufficialmente, poi la verità già lo sai, no? Se no te la ridico poi. E poi ritornati, quando avevo un anno circa, ritornati a Sassari. Per quello sei secco. Lei, ma secco per certe cose, ma mani bucate per le altre. E cosa hanno detto? C'era un'impressione che praticamente è cresciuta la moto e praticamente era un'uscita cronica, cioè, e doveva essere riaperto per farla diventare di nuovo allo stato, diciamo, iniziale, dai, in sangue. E quindi mi ha dovuto tutto scansare, lui va a perdere. Ma i bordi non si possono cucire? No, c'è formato un carro che non mi fa uscire. E questo carro è cresciuto molto, l'hanno dovuto trasportare, scavare, poi con un arco all'interno della finita, guarda, non si guarda. E spero che ti abbiano fatto l'anestesia almeno. No. Roba da te l'ho detto, roba da terzo mondo già. No, è successo lui di ieri, sono andato a lavoro e mi è venuto questo odore fortissimo, non riuscivo manco a pagliare il piede. Un odore che mi ha fatto scendere le lacrime, perché non ce l'ho fatta da dolore, lo mi scendevano le lacrime così da soli. E mi hanno visto questi miei colleghi e mi hanno fatto una ciabella. Ti fai un po' di riposo e te lo fai guarire bene già. E allora, stamattina ho cominciato, sono andato prima per prendere l'appuntamento per gli avventurini. 147 persone alle 9 c'erano. Cazzo, roba detto non davvero Semo. Praticamente il CUP là hanno fatto un impiccato lì all'entrata all'ospedale civile sulla sinistra, non ce n'è più altri CUP che sono qua. E vada a fanculo qua, quando mi ripassi mi dici cose. Vada a fanculo. Guarda, tu devi vedere quelle poveracce di ragionieri che c'erano lì a me lo posso immaginare, anche loro lavorano male quando è così la situazione. Ma se ci avevano gli occhi qua, se non volevano visto. Io sono, non so cosa ho fatto, ho preso il numero, poi sono andato al centro diabetico, mi hanno fatto quel lavoro che dovevano fare, sotto il suo futuro alla fine, sono così io come ti sono andato, con lui a per operare. E ci vedono ancora 70 di persone, non so, immagina. C'è stato diabetico, mi hanno fatto tutto l'operazione, tutto quanto, e poi quando sono tornato c'era altre 70 persone, meno male che qualcuno se n'era andato, anche se no l'università 70 passò, e diciamo che in una mezz'oretta mi hanno cavata, perché poi a luna che ci sia gente o che non ce ne sia, più devo... Per carità, sempre peggio me, guarda che è una cosa seria, basta che l'Italia spenda in armamenti ed è contenta, in missioni di pace, a quello pensa e buco, e allo stipendio dei politici. Sì, ma potete andare a passare in pace, potete andare dove c'è la clinica, la settrice, eccetera, eccetera, lì c'era un pubblico, c'era uno a Palazzo Rosa, c'erano diversi, capito? Potevi andare dove ti pareva, dove ti vedeva meglio. Adesso è tutto centralizzato lì. E c'è la gente, natalissima pura, e tu, immaginati dove c'è la recepcia dell'ospedale, arrivano fino a lì. Quello andare a piazzare il casino anche. Io ho fretta! Se rimasi tutte le persone a voci, e quelle poverette, non possono far niente. Ma tu lo sai che i diabetici hanno una precedenza, se io dicevo che lo diabetico passavo tra lì. Ebbene, dovevi approfittare già, è il tuo diritto. Non mi piace, non mi trovo, la mano, ti bestemmia, non cazzo. E se ti ti cura, e però questo mi sa cosa fa, capirà che la fa sempre prima di me. Adesso c'è proprio c'è un monitor che dà il numero, che chiamano tramite come fanno le poste. Beh, fatto sta questo qua, chi cade andato, ho detto scusi lei che numero c'ha? Io ho 150, io ho 147, se ne vado a sedersi, quando la chiamo, quando c'è il numero sopra, no, io stavo andando perché ho visto che non c'era gente, stavo chiamando loro, gli ho detto che deve controllare il monitor. Comunque già, tu sei diabetico, hai il diritto di passare prima, ci mancherebbe. Poi mi mandare a fanculo gli altri. Adesso stai a pensare, è come le poste, mica, alle poste, mamma ha preso il biglietto, poi eravamo andati al Bartolino. A pigliarci una cosa, ha detto, aspettiamo che smaltiscano un po', no? E poi mamma è rientrata, no, aspettando che lasciasse il numero. E come è passata al coso, c'era questa stronza dietro dicendo roba, questa stronza, no, arrivata, ha detto, signora, ma lo vede il numero? Ecco, c'è un numero più nuovo, lei è arrivata dopo, c'è un numero più vecchio, quindi deve aspettare, e quella, sai chi era? La madre di bambolina. E comunque c'è sempre quello che prova, che fa, anche quando faccio le analisi, io ce l'ho detto, c'è tutto di passare in tutti. A parte che io gli l'avrò tutto anche fare, perché ho stato appena, mi hanno già appena fatto quell'operazione, quindi in piedi non potevo stare. E ho approfittato, ho cominciato a prima, mi sono subito seduto. Eia. Carità. È messa male la sanità italiana, messa male, allucinante, però te l'ho detto, stipendi dei parlamentari, armamenti e missioni di pace già le finanziano, capito? Per quelli i soldi ce li hanno sempre, ci vorrebbe un colpo di Stato qua, altro che colpo di Stato. A livellare gli stipendi, livellare anche gli averi, capito? Non uno schifo, guarda, c'è gente, anziani che vanno a frugare a piazzare segni sulla verdura che hanno buttato le bancarelle. Non dovrebbe succedere, dovremmo essere più livellati, capito? Chi ha troppo e chi ha troppo poco. Livellare le cose, capito? Tu hai più bisogno e becchi un po' di più allora. Io ho visto uno mangiando la pasta asciutta al cassonetto, tutti di quattro, più dietro di stare, ma e capa al mondo, eh. Allora, io ne ho visto uno mangiando la pasta in bianco poi, una pasta che avevano dato, hanno messo un piatto sotto la macchina con la pasta da dare ai gatti. Questo è andato lì, l'ha presa e se l'ha mangiata. Poi gli ha fatto schifo e non ne ha più toccato, poi gli ha fatto schifo. E premetto che questo era un tipo che una volta era normale, poi è uscito in testa, ha cominciato a dormire in strada. Mi ha fatto così ribrezzo questa scena già. L'ho chiamato, ho detto vieni un attimo, ascolta, hai fame? Tu sì. Ascolta, se mi aspetti un attimo ti porto della pasta asciutta al sugo col parmigiano e ti do un bicchiere di vino rosso, va bene? Sì, sì, sì. E gliel'ho portata. Avevo pasta giù quel giorno, spaghetti, bello, gli ho messo un bel po' di sugo, di parmigiano e bicchiere di carta col vino, bicchiere di plastica, però ho detto devi provare una cosa, quando finisci di mangiare per favore butta il bicchiere, il piatto nel cassoletto. Sì, sì, sì, lui ha mangiato a sazietà, poi quando non aveva più voglia, che era ben condita, ha buttato tutto nel cassonetto, il piatto, le posate di plastica. Insomma, a vedere una scena del genere, mai vista, mangiare la roba di gatti, poi era una pasta schifosa, proprio pasta bollita e bumi, non era altro. Mamma mia! Io ho visto una scena, allora, in piazza con una Mariana avevano fatto, c'era un complesso che suonava, e davano, c'era una degustazione di roba rossa, si facevano i panini, eccetera, eccetera. No, però dovevi fare la fila per prendere il biglietto, poi andare a fare la fila per prendere il panino, io ne sapevo un io che ce ne andiamo. E non è stato, a me non me ne frega nulla del panino, dice, ce ne posso andare a prendere il complesso, poi... allucinante, ma e non bastava mettersi in fila e chiedere una porzione, bastava mettersi in fila, aprire il biglietto e avere una porzione buona, non roba masticata e buttata, mamma mia, che roba, guarda, allucinante. A me fa ridere quando fanno quella geminata lì, sì, in piazza Colonna Mariana, in Falsia, che vanno a mangiare lì i tipi, a mangiare così, fa schifo, non ci sono mai andato io. Infatti io se voglio mangiare mangio in casa, non vado lì a mendicare roba da mangiare. Per certo è una tradizione, solo che non ho mi piace, dai. Ma Marco, gli avevi detto a Gianni per venerdì, sei d'accordo? Ah no, Gianni, noi per venerdì vorremmo tentare di fare una picciata o quello che è. Tu venerdì sera sei disponibile? Io sì. Intanto in ferie Gianni, mi siamo andati a Pennello. Però già, andiamo al Lucernaio, ti ricordi dove siamo andati con Stefano? Che c'è anche la Fainì, io voglio di Fainì. No, io voglio andare in un posto dove c'è musica, che ci possiamo far tenere, cavolo. Lucernaio l'ho veduta lì, là. Un posto dove ci sia musica, cavolo. È tipo, già ti posso dire, dopo la buona tua figlia, oppure, già ti posso dire, ce ne sono tanti locali a Sassari, anche a Platamona, che fanno musica. Anche a Platamona possiamo scendere se c'è, se è ancora aperto, non lo so questo, perché ci sono diversi locali dove fanno artista, cantano, c'è karaoke, sì, c'è, c'è compagnia, oppure anche dove siamo andati l'altra volta, che lì si fa il karaoke. Ah, non c'è mai. Posso stare, perché sennò ce ne andiamo via alle 8 e non vedo. No, però stiamo alle 9, no, già io lavoro pure. sono impegnato, capito? Sono tutta dei fine settimana impegnati. Devo terminare su, e non, capito? Se no è un casino. No, così tardi no. Se andiamo qua a Sassari, va bene, a me della musica mi ha fottinuto, ho già andato a cantare, a fare karaoke, io vado a rilassare. Non basta un karaoke, mi fotto tutta la ghetta già. Io volevo andare a Lucernaio perché c'è anche la Fainè, capito? E siamo a Sassari, cosa già andare a fare tre manzane? No. Ma l'aspettavo, mi dica. Vabbè, anch'io farò karaoke, poi tutta musichetta che a me non piace, quella roba lì. Poi davvero cominciamo a fare tardi. Non per me, io impegni non ne ho, però io posso tornare anche alle 7 di mattina. E Natalino cosa ne dice? Anch'io voglio di Fainì. Andiamo a Lucernaio. Speriamo sia buona. Non ti ricordo che eravamo già andati ed era buonissima. No, già a me non mi interessa la musica. Sì, io vado dove c'è meno casino possibile, capito? Non ci siamo bambini, non ci sia musica, che non mi interessa, vado a rilassarmi, se no è inutile che anni. Allora mi gioco a casa, non basta la musica che vai a casa, tra cani, telegiornali, e Maria De Filippi, Grande Fratello, c'ho Grande Fratello in diretta, guarda, non ve ne dico, 24 ore su 24, cazzo, a casa mia guardano Grande Fratello, la cosa più schifosa al mondo. Per carità! Ma per carità, sì, io non la guardo mai. Mi sto dicendo una cosa allucinante, 24 ore su 24, ma voi si alza alle 8 del mattino, alle 9, Grande Fratello vinta a cena, a pranzo e a cena, il tuo Grande Fratello in diretta poi, capito? Io ho Mediaset Premium, quindi in diretta, capito? La cosa più schifosa al mondo, gente che si vede lì, poi adesso hanno inventato Grande Fratello VIP, a razza di VIP, cazzo, Gioia TV, la televisione, e vai da 4 Vrosci, ma Giulio, chi d'altro, ma andate, fatevi. Ceccio Malgioglio, non fare il culattone pure. C'è anche la signorina, Sì, ma una cosa, cioè gente che non si è più vista in TV, capito? Vanno lì e sono pagati, ma ve ne rendete conto? Sono pagati al giorno non so quanti soldi più il montepremi. Vanno lì per guadagnare soldi. Quanto? Quelli che prendono di meno, amanti nidivi, prendono 15.000 euro al giorno, roba da matti, gente morendo di fame, mi incazzo. Proprio a sputare sulla povertà. Guarda, tanto era meglio il Grande Fratello di gente comune, almeno riescono a far carriera dopo. Questi invece sono quelli che non hanno fatto carriera, li mettono lì dentro per farli guadagnare i soldi. Serena Grandi, vera Serena Grandi, la Carmen Di Pietro, ma in cui rimanda? Ma dove stiamo vivendo? Ma in che mondo viviamo? Dove la rotta mare? Poi Simona Izzo, che è Morendi, ancora in televisione. Dove la rotta mare? Guarda, a volte do una sbirciata proprio a vedere il culo della sorella di Belen e Irai Jespica, che sono gli uniche forse valide lì dentro. Ma roba da matti. Rimani Zani Cutuvola, Marco Predolin, perché ha bestemmiato. Cioè, una bestemmia che non è una bestemmia. Ha detto... mannaggia la miseria, se questa è una bestemmia, mannaggia la miseria, ti danno il culo pure come un cani. E quella bestemmia è, e se avessero sentito le mie di bestemmia, porco zio! Come porca miseria, è una cosa per me, non almeno come una bestemmia. No, beh, porca già è una cosa diversa, lui ha detto mannaggia la miseria, capito? Mannaggia la miseria è una bestemmia, non sa meno mentre cui tiro vola, tu presi, ti danno il culo vola. Poi c'è la ragazza di uno che ha partecipato ad Amici, no? Lì ad Amici Maria, altro programma bellissimo, guarda, ve lo raccomando e guardatelo tutti i giorni. Questa ragazza perché è la ragazza di questo che praticamente è diventato VIP a causa di questo programma che ha fatto, no? Anche lei è diventata VIP ed è entrata al Grande Fratello VIP, una mai vista e conosciuta. Cioè stiamo vivendo in un mondo di ladri. Cosa ho detto io fino a poco fa? Dovrebbero livellare il reddito. Questa ragazza 15.000 euro al giorno, una mai vista e conosciuta, la figlia della siracca di Camboni che sino all'altro giorno stava lavando scale per mantenersi, ma uno schifo. Dunque la sorella di Belen è meno bella di Belen, però una bottarella gliela si può dare. E troppo di faccia mi va un po' gudicchiosa, burro, però c'è un bel fisico, insomma si può vedere in TV, capito, anche Aida Jespica, insomma sono personaggi che vabbè, ma mi ricordo quando c'era l'altro grande fratello Vito. Per carità di Dio, c'è Maria, guarda. Quindi, giusto per dirvi, no, se io posso andare dove c'è musica, non vedo l'ora, i scimini da Gaza, ma rilassarmi, tranquillo e sereno, ando a fa karaoke. No, già, no. Quindi vedi, no, se vogliamo andare a rilassarci, a passare 2, 3 ore, 4 ore, andiamo, per prenotiamo verso le 9, e a mezzanotte siamo a casa, mi sta benissimo, però rilassato, tranquillo, senza aburotto, no, in questo periodo ne sopporto poco io. Già, beh, a te che lo puoi fare, io mi diverto lavorando, per me il lavoro è un divertimento, però quando vengo a casa voglio silenzio, tranquillità, anche perché siamo io e mia moglie, mia figlia non c'è quasi mai, oramai si è fatto la brandina in Kivir, a Montserrat, e ho bisogno di rilassarmi, capito? Tutta la settimana che trotto come te li dannati, a destra, a sinistra, a bordi, a quella, a quell'altro, su un motopicco, scavatori, la Reci, con Trapani, Ballevari, no. Lascia verde. Tu se voglia divertirti già, fallo tranquillamente. Andate, io non ci vengo. Se andiamo qua a Sassari a rilassarci va bene, se no non aggiungare il tavia gente, pure a panda mangiamo la pizza. Allo Spiti Dei, aspettate un attimo, mi è sembrato sentire la voce di Fortunato. Fortunato, sì. E dove sei, che sembri nell'aldilà? Ho capito, Cagliari. Stai scendendo da Cagliari? Fortunato, poi devo lineare. Se tu mi ascolti, io ti sento basso, guarda, non c'è un filo di QRM e sono riuscito a tirarti fuori. Ho capito, Cagliari, ho capito se stai scendendo da Cagliari. E un bel basso. Avvicinati Fortunato e poi richiamami, lasciamo un po' di bianco tra un passaggio e l'altro, così vediamo se in che zona si trova, perché sicuramente sta rientrando da Cagliari o è a Campeda, non lo so. Avanti Marco. Eia. E quindi cosa dite? Vabbè, io a me sarebbe piaciuto Lucianaio perché è vicino a casa e sarei salito anche a piedi, per dire. E Natalino cosa propone? Lucianaio. Natalino, Lucernaio, Claudio. E per me va bene Lucernaio, poi Valerio c'è anche, Valerio già viene qua, lo porto io, non c'è problema. Valerio basta che si sia da mangiare, anche le barracche vanno bene per Valerio, vero Valerio? Ma la fanina mangi, Valerio. Se vogliamo mangiare fai buona, basta dare via un drive, mangi fai come ci deve. Ah, pigliare in gomma le vostre maggia, a pizza e la fainè, cosa ando, via José e mangiare la fainè. Facciamo un giro prima di fainè, capito, giusto per in attesa della pizza, e poi ci prendiamo la pizza. Secondo me, poi vedete voi, se non va bene a me non mi interessa. Gianni ha bisogno di cantare, cosa vuoi ti dica? Ti butto un microfono, la chitarra e ti fermo a cantare. No, invece facciamo una cosa, ci ubriachiamo tutti e cantiamo nel locale. Perché molti di scendica, fare 10 abbattoni di cigarro. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Io lo porto io a Gianni a cantare in questura. Così vedi Amaro lo guapo, fai la bravo Gianni. Ah, ciabattone a noi, ah, mi pare c'è più ciabattone in due di noi. Io sono ciabattone. Ma io non sono più ciabattone, però io ho trovato a fare. mare su in paese, se no qua si pianta lo buco. Oh, non parlate in due, cosa hai detto? A che punto è, ho detto? Mia figlia gli ha sistemato, non mi devo sistemare io adesso. Mi ha finita! Sta già abitando da 4 mesi. E che una visione di nana fate un bel impressa già. Vabbè, piano piano. Sono già tutti bobri, nuovi. Tutto, ma c'è da fare un sacco di cose. Quindi ho bisogno di fine settimana di dedicarmi a queste cose, capito? Perciò ho chiesto se mi danno una settimana questo mese, un'altra settimana al prossimo, perché ci sono un sacco di cose da finire. Vabbè, vedete voi, fatemi sapere, non è un problemino. Lucendaio! Leia, vabbè Claudio, la linga! Natalino! Lucernaio, Lucernaio! Cappa, cappa! Cucino oggi, perché è vicino a casa a me, eh? Hai capito? No, hai capito che ce la fai me? Certo, io sono combattuto. Oh già, ma stai chiudendo, no? Non ci ho capito, stavo per chiudere. Ah, stai per chiudere, no, volevo dire. Io sono combattuto sempre tra fame e pizza, a me piace sia l'una che l'altra. Solo che... mannaggia. Ho mangiato, cioè dovrei mangiare giusto una fettina di fainé per riuscire a mangiare la pizza, seppure ci riesco, perché arrivo sempre con gli occhi fuori, con l'occhio di fora. Io non ho mai avuto i miei problemi, anche se mi dai due pizze e la fainé mi mangio tutto grande. Eia, a meno che avrei potuto mangiare mezza pizza e un po' di fainé, quello sì, solo che mezza pizza non la vuole nessuno da dividere. Ah, io Marco farà bravo, già mezza pizza, mezza farina. Si va e si mangia quello che si vuole, già. Capito? Oh, già, non lo so, o oh, per me o Lucernaio o l'ospitidea. L'ospitidea non c'è bisogno di prenotare niente. Se volete andare lì, andiamo lì, se no vedete voi. Come vuoi, tanto siete maggioranza, quindi io vengo dove volete voi, là. Andare anche ospiti lì, non c'è problema, capito? C'è più traffico, più cose, non lo so. Ma non questi di maggioranza non c'è, è questione che non... a me non mi interessa il karaoke, capito? Per andare da Ilaria, sì, lì c'è musica, il venerdì, il sabato, la domenica, ci sono gruppi, però non ci conviene perché si balla un bene, capito? Lì la pizza è a tranci, ogni trancio costa 3 euro e cose, di questi tranci me li mangio dentro, più conveniente la pizza, non la fanno loro rotonda, capito? Fanno a tranci, e quindi non conviene, anche le bibite sono molto care, non fa, capito già, per quello te lo sto dicendo. Io so che gente che è andata ha mangiato il panino, quindi tranquillamente non ha pagato tanto. Ti ho detto che anche bello è come posto. Io non l'ho mai visto, però volevo andare a vedere qualcosa di diverso, di no, per altro. Vabbè dai, no, avete uno spirito diverso dal mio. Cosa vuoi che ti dico? Io mi adeguo. Già. Quando si va in altri contesti si può andare anche così, capito? Ma io, mia moglie rimane sola, quindi voglio essere anche presto, capito? Ok, anche perché l'aria venerdì mi sembra che ci abbia la chiusura, quindi a farsi ne va a vedere due, delle manzane, quanto è sempre, e niente. Vabbè, fatemi sapere, oggi è mercoledì, c'è ancora domani, decidete, dopo volete andare, me lo dite, se sì o no, e quanti siamo. E Stefano, sapete niente? Stefano è ancora impegnato a Olbia, non penso che scenda venerdì. Un attimino. Oh, Gianni. Giovanni è più giovanile di tutti noi, è più giovanile. Mi piace il karaoke, la musica al vivo, noi ci amiamo dei morti. Ah? Io, Natalino e Claudio. Dici anni mi piace cantare. A me cantare mi piace. Ehi, va bene, nemmeno a me piace, c'ho la voce brutta. Capito? Ma ascoltare si può, non è che. Va bene. Ma anche io dico a Lucianaio, più che altro perché era vicino. Anche per Natalino viene comodo, può salire anche a piedi, mi gira gira. Cosa va qui? Marco, ascolta, lo sa perché ci alloggiamo e vuole andare? Non è che è giusto in cielo, è che vuole fregare a tutti voi. Oh, così è. Aspetta, fortunato. Va bene. Vabbè, comunque già, si sta chiudendo, mi qua è arrivata la pappa, come la chiamo io. Ci sentiamo già, dai. Poi, comunque, per me, io ancora i soldi ce li ho, quindi affrettatevi, affrettatevi, perché se no siamo messi male, ok? Fino a venerdì arrivano i soldi, ci arrivano. Vabbè, cosa vale anche per me, dai. Ciao, ciao Concetta, ti ho sentito. Perché a me mi conosci, io parlo in faccia, se sei possibile. Sei parlato al baracchino, non è fatto. Ma se ti vedo di faccia te lo dico, lo aspetto, lo sai che io lo mando a dire le cose. Poi sono tutto carrucato. Ecco. Sono col bastone addirittura. Ehi, vabbè, anche col bastone si può uscire. Aspettate un attimo, invece Fortunato. Fortunato! Sì, sì, poco fa ti sentivo basso basso, ho capito, stavi rientrando da Cagliari, ma non ho capito dove vedi. Lì Mores è un punto brutto, poi c'è Dicesone, Sinico, ho capito, è un casino. Però già ti sentivo, no, non c'è problema. Bene, bene, stai arrivando, Fortunato, non problema. E adesso dove... Si è abbassata la radio, Fortunato, c'è Gianni, Marco e Natalino, vai. Fortunato, mi ascolti? Dove sei? Io Gianni, in ricoperazione qua, come? Capo, ti ho sentito bene, dai, adesso. Non so come mi stai ascoltando tu. Subito attaccando, Gianni, mi. Si crede che la Caglia. Gianni, mi sa che Solignale sei tutto sciatto, lo che è al Tanit, Fortunato, è lì a Predaniete, e tu hai attaccato Solignale. Mamma mia, Roma è troppo. A me mi sentivi amore se c'ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 watt c'ho, Fortunato. Io sono una potenza. Infatti sto usando sempre il baracchino, intanto cosa serve tenere il K, no? Non serve a niente. Con la posizione che ho anche 10 watt vanno bene. Ok, va bene, allora aggiudicato, va bene, aggiudicato là per venerdì si va, poi decidiamo o Lucernaio o ospiti dei. Per me è meglio Lucernaio perché io ho voglia di fare poi. Se voi avete voglia di cantare, andate a cantare. Tutti quest'ora a cantare. Deia. Oh, ma come mai Fortunato c'è la radio quasi zero? Diglielo, vale. Non lo so, Fortunato, ma la batteria scarica c'è del microfono. Sono accorto perché a primo impatto esce forte, poi mano a mano va a calare, quello lo fa la batteria, capito? Perché manca il voltaggio. Vabbè, tanto sei già arrivato, quindi no, perché c'era la voce molto bassa. No, Marco già ti ha sentito, Gianni lo stesso, già l'hai sentita Fortunato. Gianni, Gianni è parito. Vabbè, dai, io vi saluto comunque e vado a cenare, a proposito di cenare, dai, che è già pronto. Ciao Valerio, Valerio, sentiamoci domani, così mi dai conferma per venerdì. Ciao Natalino, ciao Conce, ciao Marco, dai, buonanotte a tutti, io chiudo e vado a mangiare, ciao ciao. Io Giuseppe, lei a Claudio, dai, di Dravessu. Altrettanto, ciao, non lo sento Giuseppe io, non arriva più qua. Ciao se mi stai sentendo. Ciao Fortunato, ci sentiamo, dai, alle prossime. Ciao Claudio, dai, io la ruota. Comunque Giuseppe. Giuseppe sta arrivando a 7:30 qua, quasi 8. E caspita, arriva a me Claudio, non arriva a te. Stampati tutto. A pigliare in culo è Marco. Vabbè Claudio, ciao, buona cena, buon tutto, dai. Ci sentiamo. Gianni, hai chiuso? Ci sei ancora? Gianni ha chiuso. Natalino? Sono qui, tutto a posto. Ai, caro caro, ma devi cenare, io ho pranzato adesso. Prova da matti. Ma come ti chiudi alla sura? No, io già ho cenato. Ehi Giuseppe, ti ascolto, ma segnale 7:30, 8, ma la radio è radio 1, radio 2. Ciao Valerio, tu sì che sei forte, io così ti ascolto a voglia. Giuseppe però radio 1, 2, non c'è niente da fare, non ha radio. Passi per il segnale, ma la radio non c'è. No che. Ciao Valerio, buona cena, ciao. Natalino, io saluto anche te, dai. Ormai io ho mangiato il primo, adesso mangio frutta dolce, quindi poi mi attacco alla TV, ok? Per oggi abbiamo fabbricato abbastanza. Ciao Natalino, buon correttivo, buon tutto, saluti in casa come sempre e un bacione. Bacione. Ciao. Ricordati, è Lucernaio. Ehi, che c'è la panera. No, ma a parte gli scherzi, tu come sani, in macchina o a piedi? Non ce la fai a piedi, no? No, che sono col bastone, salgo con la macchina, se no come faccio? Ma se non è che vieni a pigliarmi tu, con la Ferrari tua. Ma poi non trovo parcheggio io. Cazzo, visto là, è un bastardo questo matto, con te è un bastardo. Che amico che sei. Capito, almeno non perdo il parcheggio io. Oia. E dai, cerchiamo di già dei trovi, dai. Poi torni tardi, magari qualcuno esce, sai, venerdì sera vanno tutti fuori in discoteca. No, se no faccio venire a Gianni a pigliarmi, se può guidare, se no vado io a pigliarmi, me ne frego del parcheggio. Io oggi l'ho dovuta posteggiare in punta di casino la macchina, perché qua nix passa il parcheggio, assolutamente. Eia. Ma non è che per questa gamba devi chiedere una parziale invalidità a me? Se tu ti fai mettere allo stato invalidi e parcheggi quando vuoi. Oia, fine mentira, meglio usani. E con la fretta di parcheggiare in via Sosso, di tornare a casa, mi ha dimenticato il bastone in macchina. Cosa gravissima. Eia. Bisognerebbe averne uno in macchina e uno a casa, per quando esci a piedi, no? Per esempio anche mamma, lo sai che per la sua condizione della gamba poteva chiederla l'invalidità e lo stallo invalidi? Non per una pensione invalidità, giusto per lo stallo invalidi, non l'ha chiesta. Voleva chiederla, poi non ha fatto nulla. E vabbè, pazienza. Ci sono già due stalli invalidi sotto casa, mi. Sarebbe stato comodo, ma non ne sta facendo, peggio paetta. E poi bisogna vedere se glielo dà, non è così, bisogna vedere il grado di invalidità che ha uno, non è che te lo danno così. Eia. Però lei cammina molto male, c'ha proprio l'artrosi dell'anca, forte, cammina male lì, quando può camminare, perché si deve pigliare il Brufen, se no le viene a crepe. E poi dipende molto da chi esamina, dai. Va bene Natali, dai, buona serata, buon tutto, ci sentiamo a domani, ciao Marco, alle prossime, vai, salutami tua madre, alle prossime.